Respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini per questa nuova puntata di Respiro, in cui parleremo di edilizia a basso consumo energetico. È infatti questo il tema della puntata di oggi, che affronteremo con una visita a un complesso che sta per essere ultimato e che comunque è già in buona parte abitato. Parliamo delle case sul Martesana di Vimodrone, un comune alle porte di Milano. Non ce ne vogliano gli ascoltatori milanesi, ma si chiamano proprio così, con il Martesana inteso come naviglio al maschile e non al femminile, come si usa dire a Milano. Sono una serie di palazzine, queste case sul Martesana, che sono 21 per l'esattezza. Le prime di loro sono state inaugurate attorno al 2006, le ultime sono in fase di completamento e sono state costruite secondo criteri di risparmio energetico e quindi con una particolare attenzione ai materiali e ai sistemi di riscaldamento e raffreddamento. L'impresa che le ha realizzate è il gruppo Valdadige di Verona, e è un'impresa che è stata particolarmente lungimirante, potremmo dire, perché ha scelto già in fase di progettazione di costruire abitazioni ad alta efficienza energetica, quelle di cui oggigiorno c'è un gran bisogno. Fin da subito il gruppo Valdadige chiese quindi a ICMQ, che è un organismo di certificazione edilizia, di studiare il progetto, apportare le modifiche che fossero state necessarie, seguire i lavori e alla fine rilasciare una certificazione energetica degli edifici. Le cose si sono svolte esattamente così, c'è stata questa collaborazione tra il gruppo Valdadige e ICMQ e noi abbiamo incontrato Carlo Oppici, direttore generale di Valdadige, e Lorenzo Orsenigo, direttore di ICMQ, proprio a Vimodrone, negli edifici che hanno curato e realizzato insieme. Lorenzo Orsenigo, la prima domanda che le voglio fare è questa: ci sono delle categorie, c'è una scala che rappresenta, per così dire, le classi energetiche degli edifici? Oramai tutti, diciamo, hanno un po' imparato a giudicare per il momento delle apparecchiature, come il frigorifero, la lavatrice, in base a una scala energetica colorata che abbiamo visto appunto sulla lavatrice che andiamo ad acquistare alla... In quella specie di piramide colorata. Esatto, esatto. Quindi tutti un po' hanno imparato a conoscere questo tipo di simbologia. Lo stesso si sta cercando di fare per l'edilizia, considerando che un edificio è una casa, è una cosa di un valore talmente grande che sarebbe sciocco non qualificare un edificio che ha un costo così elevato, che può impegnare le famiglie per decenni con dei mutui che fanno fatica evidentemente a pagare. Sarebbe sciocco non disporre anche di questo parametro nel giudizio per l'acquisto della casa. Questa adesso la scala energetica, quindi le classi energetiche che utilizza ICMQ, sono basate sui decreti legislativi nazionali, di modo che ci sia un riferimento unico in tutta Italia nel giudizio appunto sulla prestazione energetica dell'edificio che si dà. A sono altissime, come diceva prima. Per quanto riguarda Vimodrone, di quale classe stiamo parlando? B? Sì, dire qualcosa a proposito. Riguardo al discorso della classe B, c'è da dire questo: mettere sul territorio degli edifici una edilizia che sia di buona qualità non significa necessariamente fare delle esperienze esasperate nel senso di consumi bassissimi. Oggi si arriva a parlare anche di passive house, cioè di case che addirittura sono autonome, sarebbero autonome dal punto di vista energetico, non hanno bisogno di energia per poter funzionare, perché magari producono da sole l'energia di cui hanno bisogno. Questi sono degli esempi estremamente ambiziosi, che però hanno anche dei costi notevoli e quindi sono anche degli esperimenti che, per parlare di edilizia di uso comune, non sono alla portata di tutti. Carlo Oppici, che modifiche vi ha chiesto di fare ICMQ per centrare l'obiettivo della certificazione energetica? La certificazione ha comportato una revisione di tutto il progetto a livello impiantistico e a livello anche edilizio, e abbiamo trovato alcuni argomenti che potevano consentire di ottenere un grosso incremento senza stravolgere l'impianto che ormai era già di fatto stato pensato e che quindi non poteva più essere modificato. Quindi abbiamo operato a livello di isolamento termico, soprattutto intervenendo sulla qualità dell'isolamento termico dei serramenti e quindi dei vetri, che sono dei vetri bassi emissivi che hanno caratteristiche di isolamento termico molto elevato. E poi abbiamo ottimizzato lo sviluppo della parte invece impiantistica, che è la vera, diciamo il vero nucleo che garantisce il risultato complessivo, è lo studio che è stato fatto per l'impianto di riscaldamento e di raffrescamento, perché qui la scelta che avevamo fatto fondamentale era quella di dare non soltanto il riscaldamento invernale, ma di dare anche il raffrescamento estivo come dotazione di capitolato. Mm-hmm. E questo ci ha consentito di ottenere con un impianto adeguato una soluzione intanto che evita tutte quelle brutture degli impianti individuali che poi in qualche modo rovinano l'estetica degli edifici e creano problemi anche di fastidi reciproci per la rumorosità, per le emissioni di caldo tramite gli impianti che sono posti all'esterno. E poi abbiamo ottenuto un grosso risparmio energetico, perché ovviamente facendo un impianto centralizzato si sono ottimizzate molto tutte le risorse. Abbiamo fatto la scelta di ricorrere allo scambio termico con l'acqua di falda, che quindi è una sorgente energetica a basso costo, e abbiamo quindi degli impianti che garantiscono un buon risultato con dei costi molto contenuti. Come impresa questa era una prima esperienza di questo tipo che avevate, o in giro per l'Italia avete già portato a termine progetti come questo? No, per noi è stato il primo esempio di intervento di queste dimensioni, e quindi ci siamo avvicinati a questo tema con particolari stimoli, anche proprio perché era per noi un'esperienza nuova. Da qui stanno nascendo invece delle opportunità che in qualche modo sfruttano questo tipo di esperienza per replicarla in altre localizzazioni. L'importanza che ha avuto per noi questo progetto ci ha sollecitato a questo livello di attenzione, insomma, molto particolare sulla fase di progettazione, che poi si è concretizzato anche con la fase di certificazione energetica tramite i CMQ, perché abbiamo ritenuto, insomma, che questo passaggio della certificazione fosse un suggello, un timbro, una valorizzazione ulteriore data da un terzo esterno all'impegno e allo sforzo che avevamo fatto noi in fase di progettazione, in fase di realizzazione. Poteva anche essere comunque un tipo di riconoscimento, diciamo così, che può essere speso anche sul mercato, no? Il confronto non ha paragoni, assume delle proporzioni addirittura enormi, e quindi in termini economici i risparmi che gli edifici che abbiamo realizzato adesso consentono rispetto a quelli che probabilmente molti di noi sono abituati ad affrontare nelle abitazioni che sono state costruite negli anni, diciamo, recenti, comunque sono valori molto significativi. Insomma, parlare qui noi parlavamo di un risparmio di 1000 euro circa all'anno di costi complessivi energetici, ma rispetto a quello che sarebbe stato possibile fare con degli edifici comunque rispettosi delle norme attuali. Se lo andassimo a confrontare con degli edifici costruiti negli anni 50-60, sicuramente questo risparmio può come minimo raddoppiare. Quindi sono valori molto significativi che poi hanno la tendenza a crescere anche nel tempo in funzione dell'aumento dei costi energetici che sono evidenti. Quindi quello che noi riteniamo, il motivo per cui noi puntiamo, abbiamo puntato al di là e a prescindere dalle indicazioni normative su questa attenzione all'aspetto ambientale, è che riteniamo che il mercato possa apprezzare e riconoscere questo vantaggio in termini economici, che poi in fin dei conti si traduce anche in una maggior valorizzazione del bene immobile, insomma, perché questo è evidente, insomma. Ora, come ora in fase di acquisti e vendite si richiede questa certificazione? Purtroppo ci sono stati ultimamente degli interventi a livello legislativo che hanno messo in forse la richiesta di allegare il certificato energetico per quanto riguarda i soli edifici esistenti, mentre invece rimane sempre in vigore per quelli nuovi. E questo ha generato, devo dire, un po' di confusione, sta generando un po' di confusione nel mercato. In realtà, se noi andiamo bene a vedere quello che è stato stabilito a livello legislativo, l'obbligo di consegnare un certificato energetico all'acquirente in realtà non è stato cancellato. Però purtroppo ci troviamo in una situazione indubbiamente che ha degli aspetti che dovrebbero essere chiariti. Gli impianti di questi condomini sono centralizzati, ma ciascuno può scegliere se e quanto riscaldare o raffreddare il proprio appartamento, con spese quindi che dipendono dai consumi reali, che però dovrebbero essere abbattuti grazie a impianti e finiture ad hoc adoperati in fase di realizzazione. Secondo la certificazione ICMQ si arriva a un risparmio del 50% sui costi di raffreddamento e riscaldamento rispetto ad un appartamento normale. È davvero così? Per scoprirlo abbiamo frugato nel forum che gli abitanti di questi palazzi hanno creato su internet. A leggerlo si trova molta soddisfazione per l'impianto di riscaldamento, decisamente meno per quello di raffrescamento. C'è ad esempio chi scrive: un mese di aria condizionata mi è costato come 6 mesi di riscaldamento invernale, ci volevano soluzioni più innovative. E segue poi l'elenco delle soluzioni innovative proposte: solare termico, fotovoltaico, geotermia. E da questo intervento in poi è tutto un susseguirsi di consigli, di richieste, di suggerimenti, di ditte, di specialisti e perfino anche di convegni. Insomma, sembra che chi è andato a vivere in questo condominio non solo ha inventato un forum per il condominio, che non è esattamente nell'ordine delle cose nei condomini italiani, ma anche è stimolato a studiare, a pensare, insomma, in maniera più attenta a come rendere la sua vita energeticamente più efficiente. Meglio così, e speriamo che il loro attivismo sia contagioso non solo per i comuni limitrofi ma per tutta Italia. Grazie per averci seguito fin qui, buon proseguimento d'ascolto. Adesso c'è il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. L'appuntamento è per la prossima settimana alla stessa ora.